9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 5 di febbraio. Oggi facciamo il punto su una riforma che ieri è stata definitivamente varata dal Consiglio dei Ministri e che secondo me a buon titolo è stata definita epocale. Qualcuno oggi nei commenti sulla stampa dice epocale un po' troppo, invece no, perché avviare a definitiva riforma dopo tanti decenni di impianto delle scuole medie superiori italiane, dopo la riforma Gentile e il più complessivo, organico, coordinato intervento che modifica l'assetto di fondo sia dei licei che dell'istruzione tecnica che di quella professionale, è effettivamente qualche cosa destinato a lasciare un segno profondo in uno dei sistemi, lo ripetiamo quasi tutti i giorni a questi microfoni da Radio 24, che rappresentava un punto debole della nostra competitività, perché il sistema della formazione del capitale umano del nostro paese è uno dei punti, lo sappiamo da tutte le graduatorie, debole in ogni esame comparato di analoghe capacità di analisi di problemi o di capacità di valutazione da parte del mercato del lavoro dei titoli di studio per studenti italiani a pari età di età e per analoghi canali di formazione. Quindi oggi, insieme al ministro Maria Stella Gelmini, che ha accettato di essere con noi, e lo salutiamo e lo ringraziamo di questo, buongiorno ministro. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Ecco, insieme al ministro tenteremo di fare un punto preciso per tutti coloro in ascolto, innanzitutto per i papà e le mamme, perché si tratta di capire bene in che cosa consiste la riarticolazione complessiva dei licei, dell'istruzione tecnica e professionale. Quindi insieme al ministro tenteremo di capire quali sono le maggiori novità nei tre canali, in maniera che vi facciate bene un'idea. E a me in questa fase del tutto iniziale tocca semplicemente dare pochissimi dati sul com'era prima e come sarà adesso. Poi facciamo tre blocchetti in cui lasciamo la parola al ministro per approfondire le scelte di fondo sui tre filoni, e poi vediamo di capire, anche con l'ausilio naturalmente delle telefonate del pubblico, quali sono gli interrogativi a cui risponde direttamente il ministro. Io devo dire, la giornalista complessivamente oggi nella presentazione sulla stampa italiana, ha molto spazio ovviamente la riforma, c'è un netto elemento di fondo che io metto subito avanti perché il pubblico così poi non dica che come sempre facciamo le cose solo con il ministro. A me oggi sembra utile fare una puntata di servizio con il ministro, lo dico subito senza che vi arrabbiate cari ascoltatori, e per precisione e correttezza dico che nella stampa italiana di oggi c'è una netta divaricazione, per così dire. C'è chi fa una scelta come la nostra, sono i maggiori quotidiani come La Stampa e Il Corriere che fanno due pagine, come Il Sole 24 Ore. Poi ci sono i quotidiani che hanno un orientamento del tutto legittimo, infatti li richiamo, sono Il Manifesto, l'Unità, il Manifesto la presenta con una fotografia in prima pagina con un somaro e dice somari per sempre e così via, l'Unità, Stella, Mani di Forbice. Qual è il punto unico, così lo cito e gli ascoltatori non si arrabbiano, il punto diciamo di fondo di tutti i commenti ispirati all'era dell'opposizione è quello di dire che questa riforma ha un unico criterio, quello dei tagli, sarebbe stata imposta da Tremonti, si guarda poco a come saranno le innovazioni per le famiglie e soprattutto che devono scegliere e per gli studenti che frequenteranno rispetto ai sistemi di formazione dell'Europa. Si dice no, qui si riducono il numero di insegnanti e si guarda come al solito la scuola, lo abbiamo sempre ripetuto, noi non siamo d'accordo su questo, come se fosse un problema che riguarda chi ci lavora e non chi invece vi ci deve formare e deve scegliere i percorsi formativi e deve averli di buon livello. Ho assolto, per così dire, in maniera preventiva i miei doveri di esposizione anche delle critiche. Andiamo a capire nell'ultimo minuto in cui parlo io come era prima e cos'era dopo. Innanzitutto e la riforma è definitiva perché è stato compiuto un percorso completo, per così dire, quindi siamo ai regolamenti, il Consiglio di Stato anche ha detto ok, le commissioni parlamentari sono potute tornare sulla faccenda, le famiglie possono contare sul fatto che lo schema che da oggi trovano quindi illustrato sui quotidiani è quello su cui iniziare a riflettere, e la novità è che potranno farla per le iscrizioni fino alla fine del mese di marzo. Allora, che cos'è la cosa di fondo? La cosa di fondo è che c'era un proliferare di indirizzi e di percorsi diversi nella scuola italiana rispetto alle quali questo intervento complessivamente tende di ridurre e di semplificare. Allora, io non entro più in altri particolari, ho parlato troppo, iniziamo lasciando la parola al ministro su come cambiano i licei. Ma innanzitutto vorrei fare solo una premessa di fondo, cioè cosa impronta, cosa caratterizza questa riforma e cosa, qual è l'elemento distintivo fra la nostra posizione, cioè la posizione del governo, del centrodestra e la sinistra. Noi riteniamo che non si migliori la scuola facendo un ragionamento solo di tipo quantitativo, cioè l'Italia da molto tempo pensa che basti aumentare il numero degli indirizzi, il numero dell'sperimentazione, il numero delle ore di lezione per migliorare il sistema. La realtà però va in una direzione esattamente contraria e sconfessa nei fatti questa posizione, al punto che proprio la settimana scorsa un organismo credo indipendente come l'OCSE, non è certamente la voce del governo, è una voce terza, ha stigmatizzato il sistema di formazione italiano proprio perché reo di imporre un numero di ore di lezione superiore alla capacità dei ragazzi di prestare attenzione, di poter seguire con profitto le lezioni. Quindi la sinistra si ostina a dire che questa è una manovra di tagli e che bisogna aumentare il numero delle ore, il numero degli insegnanti, il numero degli indirizzi. Però così facendo, ricordo che il nostro sistema di istruzione è sostanzialmente agli ultimi posti nelle classifiche internazionali e anche le rilevazioni dell'Invalsi mettono in evidenza che ci sono, come dire, ha molti margini di miglioramento. Allora noi questa riforma, che peraltro lo voglio dire non è solo frutto del lavoro di questo governo, a me la cosa che ha sorpreso è il voto contrario da parte dell'opposizione rispetto ad un lavoro che è stato iniziato dal ministro Moratti durante il precedente governo Berlusconi, è proseguito per quanto riguarda soprattutto l'istruzione tecnica con il governo Prodi, il ministro Fioroni, e noi abbiamo affinato, reso più sistematico il tutto con un ulteriore lavoro di approfondimento che ha coinvolto moltissimi insegnanti e moltissimi dirigenti, cioè a significare che un voto contrario su tutta la riforma da parte della sinistra significa sconfessare il lavoro fatto anche dal governo di centrosinistra. Ma così funziona nella scuola su questo tema, dove la contrapposizione non c'è. Io francamente speravo che con la venuta di Bersani si potesse davvero ragionare di riforme, davvero compiere qualche passo in avanti, constato che al momento segnali positivi non ce ne sono e noi proseguiamo nel nostro lavoro. Come? Lei ha toccato il tema. La interrompo solo per fare un'osservazione. Quando sì. A sinistra, questa è la mia opinione, non quella del ministro che deve lavorare e lavora con un'ottica condivisa istituzionale. La mia opinione è questa: quando a sinistra qualcuno interpreterà i problemi della scuola da leader del partito senza essere caudatario della legittima istanza dei sindacati che rappresentano questa legione, tantissimi, numerosissimi, di rispettabilissimi insegnanti, precari eccetera eccetera, sarà una svolta, perché si considererà la scuola non solo una fabbrica per chi ci occupa, perché ci lavora dentro, ma soprattutto qualcosa che deve servire a formare. Chiusa la mia parentesi, prego signor Ministro. Sì, anche perché così facendo credo che la sinistra sia riuscita da un lato a non creare le condizioni migliori per l'occupazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici, così come del personale ATA, e dall'altro a ridurre la qualità della scuola. Noi vogliamo rimettere al centro la scuola come servizio e quindi gli studenti. Oggi noi ci preoccupiamo di offrire agli studenti e poi anche agli insegnanti una riorganizzazione della scuola superiore, atteso che 390 sperimentazioni, centinaia e centinaia di indirizzi negli istituti tecnici non rappresentano un qualcosa che abbia un significato, rappresentano il caos, la confusione, l'impossibilità per le famiglie di fare scelte consapevoli, di scegliere l'indirizzo di studi per i propri figli in maniera adeguate, in maniera oculata. E allora noi siamo intervenuti in due direzioni. La prima, per quanto riguarda i licei, sostanzialmente confermando un impianto che devo dire è un impianto che noi difendiamo, che è forse la scuola nobile, la scuola per eccellenza, e quindi non ha senso modificare ciò che già funziona. Abbiamo semplicemente tentato un collegamento fra la tradizione e alcuni elementi innovativi. quali, a parte l'introduzione del liceo delle scienze umane e poi anche il liceo musicale e coreutico, abbiamo cercato, per quanto riguarda il liceo classico, di confermare la sua identità tradizionale. Per quanto riguarda lo scientifico, abbiamo accentuato il peso della matematica e delle scienze e sostanzialmente abbiamo individuato tre materie chiave: l'italiano, la lingua straniera e la matematica. Per quanto riguarda il potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere, abbiamo previsto che in tutti i licei venga studiata almeno una lingua straniera per tutti e cinque gli anni e vi è la possibilità l'ultimo anno dell'insegnamento di una disciplina in lingua straniera, proprio perché sappiamo che oggi la conoscenza dell'inglese, ma anche di una seconda lingua comunitaria, è un elemento molto importante anche per l'occupazione dei giovani. Quindi sostanzialmente vi è una conferma della tradizione, compreso la denominazione ginnasio che abbiamo voluto mantenere, ma anche un'apertura ad alcuni elementi di novità e di modernità che ci sembravano opportuni. Ora, per gli istituti tecnici anche lì si passa, prima c'erano 10 settori, 39 indirizzi, qui ci sono due settori di fondo e 11 indirizzi. E io però per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali farei un unico discorso, cioè chiederei al Ministro, non è un caso, la mia opinione è questa, che il mondo delle aziende, questa poi è pur sempre Radio di Confindustria, da anni abbia spinto per un avvicinamento tra il mondo della produzione e quello della formazione tecnica e professionale, come avviene secondo altri modelli, quello tedesco e così via. Mi pare che questa sia un'altra delle scelte di fondo della semplificazione per il tecnico e professionale. Prego, signor Ministro. Allora, innanzitutto vi è stata un'ampia consultazione. Io voglio ringraziare in questa sede Confindustria, ma tutte le associazioni che hanno partecipato alla rivisitazione del sistema dell'istruzione tecnica, che secondo me rappresenta da parte del governo una delle risposte più importanti alla crisi. Perché parto da un dato: oggi le aziende chiedono almeno 150.000 profili tecnici che la scuola non riesce a sfornare. E io credo che questo sia un dato sul quale, se veramente vogliamo, non solo nei convegni, ma concretamente affermare che al centro mettiamo i giovani e preoccuparci della loro occupabilità, beh, questa assenza di profili tecnici che la scuola non riesce a fornire è un elemento che deve orientare la riforma dell'istruzione tecnica, e così è stato. Noi abbiamo voluto sicuramente individuare due settori, come lei ha ricordato, il settore dei servizi e poi il settore dell'industria e dell'artigianato, con 6 indirizzi, dai servizi per l'agricoltura ai servizi sociosanitari a quelli commerciali, però la cosa che più conta per quanto riguarda l'istruzione tecnica è che si vuole creare un matching, una collaborazione più forte fra la scuola e il mondo del lavoro, e per questo la riforma dell'istruzione tecnica è stata estesa in collaborazione con il mondo della scuola, con il mondo del lavoro, ma anche con il ministro Sacconi, con il quale abbiamo individuato 6 azioni fondamentali per rilanciare l'occupabilità dei giovani, e la prima di queste azioni è quella di facilitare la transizione dalla scuola al lavoro. Si parla tanto dei bamboccioni, del fatto che i ragazzi rimangano in famiglia troppo a lungo, però questa stato di cose molte volte determinato dalla difficoltà di trovare un lavoro e quindi di poter essere autonomi. Non è una scelta, è una scelta obbligata. Allora cosa si può fare? Rivedere la questione dei tempi e dei modi della transizione dalla scuola al lavoro, e qui occorre che la scuola faccia autocritica, si preoccupi dell'orientamento e i vari indirizzi siano, come dire, indirizzi che siano richiesti dal mercato. mercato, che abbiano poi una ricaduta pratica per i ragazzi. E certamente l'altro, il tema fondamentale, è il rilancio dell'istruzione tecnico-professionale, che a mio modo di vedere deve essere declinata sulla base dei, non solo dei settori produttivi, ma anche della geografia, perché noi sappiamo che i settori produttivi cambiano da provincia a provincia, da regione a regione, quindi l'istruzione tecnica deve incontrare l'interesse del mercato. Abbiamo voluto anche rilanciare il contratto di apprendistato, e su questo lei sa che c'è stata una polemica molto forte dalla sinistra, ma noi la pensiamo in maniera completamente diversa. Non vediamo il lavoro come una forma di sfruttamento. Noi crediamo che il lavoro possa avere una valenza professionalizzante, formativa per i ragazzi. È chiaro che chiediamo alle aziende, alle imprese, di dare peso specifico ai tirocini, agli stage, alle esperienze lavorative, ma consentire ai ragazzi di assolvere l'ultimo anno di istruzione anche attraverso i percorsi della formazione professionale, anche attraverso l'apprendistato, significa andare incontro alle esigenze dei ragazzi e non vendere illusioni come la sinistra continua a fare, perché una scuola che non rende più liberi, più autonomi gli studenti, che non li mette nelle condizioni di avere non un pezzo di carta, ma una qualifica, un diploma che poi sia spendibile nel mondo del lavoro, è una scuola che tradisce le aspettative degli studenti e delle famiglie stesse. Quindi il contratto di apprendistato è, secondo noi, una modalità assolutamente legittima. Noi vogliamo anche ripensare l'utilizzo dei tirocini formativi, promuovere le esperienze di lavoro nel corso degli studi, anche educare alla sicurezza sul lavoro, ma insomma non è pensabile che il mondo della scuola e il mondo del lavoro siano due realtà destinate a non incontrarsi mai. È chiaro che se si sceglie un liceo, si sceglie poi un percorso universitario, si ha un indirizzo di tipo diverso, ma non dimentichiamo che il rilancio del Made in Italy passa anche da professionalità tecniche adeguate, che credo la scuola italiana possa essere in grado di fornire. Perfetto, allora iniziamo adesso a intervallare ulteriori approfondimenti con opinioni e richieste anche degli ascoltatori, risposta da parte mia agli sms che mi aspettavo, li avevo messi in conto, di chi critica perché ovviamente mi sono esposto in maniera unilaterale a favore del governo, sarei un caduotario, me lo aspettavo. Come si può fare una trasmissione dopo una riforma così importante se non con il ministro che la espone? Cosa vogliamo fare? Vogliamo fare ugual tempo al ministro e a chi critica il ministro? Non lo so, io preferisco che il ministro spieghi, mi prendo io la responsabilità di giudizi che il ministro non ha dato su la sinistra, il leader del PD, l'ho dato io come conduttore, è la mia opinione personale, ma per il resto oggi approfondiamo la riforma. Con le critiche potete farle, potete benissimo telefonare, dei numeri, anche dei tagli, continueremo a parlarne, quindi non c'è nessuna impostazione da caudatario. Mi scusi signor ministro, ma è obbligatorio da parte mia farlo. Iniziamo con la prima telefonata, quella di Paolo, chiama dalla provincia di Milano. Prego Paolo. Buongiorno a tutti. Io volevo fare un'osservazione molto semplice, parto da una premessa. Secondo me la scuola italiana è stata un grandissimo, almeno negli ultimi 50 anni, un grandissimo contenitore di ideologia e un grandissimo ammortizzatore sociale. Questo è stato forse il problema più devastante della nostra scuola. Quindi ben venga qualunque riforma che perlomeno ci faccia guardare anche agli altri paesi e ci permetta anche di confrontarci. Quello che io volevo chiedere però, e che credo sia una questione determinante, è questa: quali sono gli strumenti di valutazione della didattica e soprattutto degli studenti? Perché guardate che nelle scuole superiori spesso non c'è il massimo dell'obiettività nella valutazione degli studenti, spesso gioca anche il rapporto che si crea fra studenti e fra professori. E questo secondo me non giova, soprattutto poi se si va all'università. Grazie Paolo, lei pone... Grazie Paolo, duplice questione, domanda al ministro, strumenti di valutazione nuovi o vecchi, ma sia della didattica che degli studenti. Eccoci, tornati in studio, stiamo parlando del varo definitivo della riforma delle scuole medie superiori, studi tecnici e professionali, definitivamente avviato via dal Consiglio dei Ministri, con noi il ministro. Stiamo ascoltando il primo blocco di telefonate, dopo la prima, che chiedeva al ministro che cosa cambia, cosa resta sono gli strumenti di valutazione sia della didattica che degli studenti. Poi un'altra telefonata, Antonio da Lecce, prego Antonio. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, buongiorno signor Ministro. Da cittadino dico che questa riforma, almeno nelle linee che sono state espresse, è molto interessante. A me sembra che la scuola fosse diventata quasi un supermercato dove ognuno poteva comprare quello che voleva. Ma volevo fare una domanda alla signora Ministro chiedendole in che termini questa riforma garantirà la qualità nei confronti degli studenti, ovvero com'è possibile che un professore possa seguire la didattica di 35 alunni, realtà che purtroppo esistono ancora nel nostro sistema scolastico. La riforma prevede la possibilità di inserire un tetto massimo di alunni per ogni classe per dare concretamente la possibilità all'insegnante di seguirne il percorso di crescita didattica? Grazie. Grazie Antonio. Signor Ministro, intanto queste due prime risposte. Sì, allora partiamo dal tema della valutazione che è centrale per il miglioramento della nostra scuola. Anche questo è una battaglia, credo, di tipo culturale prima che amministrativa o legislativa. Si tratta di ribaltare un'impostazione che noi ereditiamo e che prevede di pagare poco gli insegnanti, ma di averne tanti, di poter avere un tempo il 6 politico, il 18 politico e oggi una situazione di mediocrità diffusa. Noi pensiamo che tra l'altro ci sono alcuni sondaggi che mettono in evidenza come siano gli stessi insegnanti a chiedere di essere valutati. Cioè gli operatori della scuola sono i primi a richiedere di poter essere valutati sulla base del lavoro svolto, degli obiettivi raggiunti. Ma certo, quando si discute di questo tema al tavolo con i sindacati, sono più i distinguo che le adesioni alla valutazione stessa. Ciò nonostante, io penso che il prossimo obiettivo che noi dovremo raggiungere è la riforma del reclutamento e l'adozione di un sistema di valutazione come esiste in tutti i paesi europei. Qualcosa si sta già facendo attraverso l'Istituto dell'Invalsi, che è un'agenzia terza che già somministra dei test alla scuola elementare, alla scuola media, poi in autonomia le scuole superiori svolgono dei test alla maturità, proprio per cercare di avere un giudizio imparziale e quindi accreditato, credibile sui risultati, sulle performance dei nostri studenti. È chiaro che serve però una maggiore convinzione, vale per la scuola ma anche per l'università. Anche per nel settore accademico noi abbiamo istituito l'ANVUR, l'Agenzia Nazionale di Valutazione della Ricerca. Questo perché dobbiamo sempre di più appoggiarci alla responsabilità, all'impegno del singolo. Credo che il ruolo del sindacato sia un ruolo da rispettare, ma non può essere il padrone della scuola. Questo non ha funzionato. È bene che ci sia una maggiore autonomia da parte dei singoli insegnanti, dei singoli dirigenti che in base al loro lavoro devono essere valutati e poter avere scatti di carriera. A me non sembra normale un paese nel quale all'interno della scuola gli insegnanti avanzino solo per anzianità e non in base ai risultati raggiunti, al merito, alla qualità. Per questo noi stiamo puntando su un sistema di valutazione e stiamo pensando anche a un disegno di legge o comunque ad un provvedimento che metta a sistema ciò che già è stato fatto, ma compia qualche passo in avanti. Ricordo che accanto alla solita polemica sulla razionalizzazione che noi abbiamo fatto, è previsto che il 30% dei risparmi che noi andremo a realizzare venga investito sulla qualità e sul merito. Questo per premiare gli insegnanti migliori, i dirigenti migliori e poi appunto per valutare, perché ricordo che noi investiamo nell'istruzione ogni anno 43 miliardi di euro, che non sono, voglio dire, una cifra di poco conto. Quindi dire che basta semplicemente immettere nuove risorse per migliorare lo stato delle cose, premesso che non è possibile a un governo di centrodestra come a uno di centrosinistra, ma il punto è un altro, il punto è come si investono le risorse. Il tema della valutazione non deve essere visto come un elemento sanzionatorio, al contrario, ma un modo per promuovere chi lavora di più, chi lavora meglio e anche un elemento di trasparenza, perché credo che i contribuenti, i cittadini italiani abbiano il diritto di sapere come vengono spese le risorse. Pensare che ci siano migliaia e migliaia di bidelli che non sono più chiamati alla pulizia nelle scuole e poi oltre a pagare queste persone si appaltano all'esterno le pulizie, a me pare che siano dei privilegi che oggi non ci possiamo più permettere in tempo di crisi. Quindi, altre domande, signor Ministro. Allora, c'è innanzitutto una mail che ci viene da Valentina Pagello, di cui le leggo qualche riga, perché pone una questione che riguarda una minoranza, però ai fini dell'integrazione che la scuola deve promuovere, verso chi è meno abile, è un punto di fondo. E Valentina Pagello chiede: la riforma degli istituti di secondo grado era da fare, mi sembrava da bene, però vorrei porre il problema del monte ore del sostegno, perché molti studenti disabili, scrive Valentina, hanno buone capacità, buone potenzialità, voglia di studiare, ma per tanti di loro il successo, che è l'unica possibilità per emergere, quello scolastico, viene inibito dal fatto che non dovunque ci sono le stesse possibilità per il loro sostegno. 7 ore alla settimana, scrive Valentino, su 30 sono una presa in giro e negare il diritto allo studio di chi ha voglia di studiare ma non può farlo da solo. Poi fa l'esempio della sua città e dice: nella mia città, per esempio, in un liceo hanno 2 o 3 disabili su 2000 studenti e quindi sono nella possibilità di dare un buon servizio. L'istituto professionale su 1600 alunni ne ha 2 per classe ed è lì necessaria la prescrizione in media di 2 anni prima, addirittura, se si vuole il posto preciso per questo tipo di... Che cosa si può fare per potenziare questa questione? Allora, intanto comincio col dire che uno degli elementi positivi che ha la nostra scuola è proprio l'attenzione alla disabilità, la presenza degli insegnanti di sostegno. Per molto tempo si è andato, soprattutto la sinistra ci ha accusato di aver tagliato gli insegnanti di sostegno. Ecco, io dico che probabilmente non sono sufficienti, ma questo governo non ha ridotto il numero degli insegnanti di sostegno, anzi ne sono state immesse una discreta quantità in più. Detto questo, io constato che qualche volta vi è una carenza di insegnanti di sostegno, qualche volta vi è un abuso, perché posto che il numero dei ragazzi che hanno bisogno degli insegnanti di sostegno è costante nel tempo, non si capisce perché la quantità prevista qualche anno fa di insegnanti di sostegno oggi non basti più. Quindi c'è un problema di riorganizzazione, di immissione di nuove risorse, però anche questa polemica sul fatto che il governo abbia tagliato gli insegnanti di sostegno non risponde a verità. E l'altro signore che aveva telefonato metteva in evidenza il problema del numero di alunni per classe. Beh, leggendo Repubblica sembra che tutte le classi italiane siano composte da 30 alunni per classe. Ricordo che esistono delle classi con 30 alunni, ma rappresentano lo 0,2% delle classi italiane, a significare che è un problema che noi stiamo cercando di risolvere, ma che non rappresenta la norma. Allo stesso tempo voglio anche ricordare che noi abbiamo come governo investito una forte somma, 1.300 milioni di euro nell'edilizia scolastica, perché il problema dei 30 alunni per classe nasce dall'accorpamento che noi stiamo facendo fra edifici, proprio perché è inutile nascondere il tema della sicurezza negli edifici scolastici. Noi purtroppo da troppo tempo abbiamo investito le risorse quasi esclusivamente nelle spese correnti, negli stipendi degli insegnanti, che rappresentano il 97% della spesa, e quindi è rimasto ben poco per garantire la sicurezza negli edifici scolastici. Con la conferenza Stato-Regione, perché le competenze sono frammentate fra comuni, province, regioni, abbiamo completato l'aggiornamento dell'anagrafe sull'edilizia scolastica per sapere in maniera puntuale quali sono gli edifici non sicuri. E allora io non sono contenta di avere classi con 30 alunni, ma mi preoccupo molto di più di avere edifici non sicuri in cui i ragazzi continuano ad andare a scuola. Quindi purtroppo le risorse non cambiano al cambiare dei governi. È chiaro che noi abbiamo un problema di utilizzo efficiente di queste risorse. Sarebbe più facile governare se le risorse fossero di più, ma oggi io credo che noi abbiamo amplissimi margini per migliorare l'impiego delle risorse che abbiamo a disposizione. Questo è lo sforzo che dobbiamo fare. Inutile dipingere scenari che non esistono. Si lavora e si governa alle condizioni date. Oggi il problema dell'edilizia scolastica è un problema gravissimo che occorre risolvere con l'investimento di maggiori risorse che il governo per il momento è l'unico ad aver stanziato. Noi abbiamo chiesto anche agli enti locali, alle regioni, stiamo trattando su questo, una compartecipazione nell'investimento, ma credo che sia importante anche il risultato che abbiamo in collaborazione con tutte le istituzioni raggiunto di un aggiornamento dell'anagrafe, perché se non si sa dove sono e quali sono gli istituti non sicuri, è chiaro che non si può nemmeno intervenire. Allora, signor Ministro, tra le altre questioni, sempre a proposito di integrazione, abbiamo parlato di disabili, c'è anche naturalmente una questione su cui ogni volta che poi riesplode il punto sono polemiche puntualmente, e cioè quello che riguarda gli immigrati. Sui giornali lombardi oggi ci sono alcune richieste di chiarimento rivolte proprio al Ministero da parte di presidi e direttori di istituti. Naturalmente è un tema più caldo laddove la percentuale è più alta di immigrati, quindi la Lombardia è classicamente uno di questi, e chiedono al Ministero, che ha mandato l'indicazione del 30% come limite massimo di alunni stranieri per classe, dicendo come si fa nelle 50 e oltre scuole tra Milano, provincia, regione, in cui questa percentuale è sicuramente maggiore, quali regole ci dobbiamo inventare? Ecco, in questo caso come si fa? Ma si lavora con la redistribuzione, cioè è evidente che questo problema, come lei ha sottolineato, è maggiormente presente in regioni che hanno una forte densità di immigrati, ma è anche vero che in Lombardia ci sono moltissimi plessi, moltissime istituzioni scolastiche, quindi vi è la possibilità, potenziando i trasporti o comunque attraverso una redistribuzione degli alunni a poca distanza da casa, di poterli distribuire in classi rispettando il 30% o avvicinandoci nella maniera più adeguata possibile. Occorre uno sforzo organizzativo, ma io do atto al direttore scolastico regionale Colosio che sta lavorando molto e sta aiutando i presidi, i dirigenti a risolvere le situazioni pratiche, però io credo che non sia un problema irrisolvibile. Si tratta di distribuirle anche fra plessi che si trovano all'interno dello stesso quartiere, a poco distanza l'uno dall'altro. Abbiamo, ricordo, anche escluso comunque i ragazzi dal tetto del 30%, i ragazzi che sono nati in Italia e che conoscono la lingua italiana. Magari non raggiungeremo al 100% l'obiettivo, ma io credo che ci avvicineremo moltissimo, e questo è un grandissimo risultato, perché noi abbiamo il dovere di garantire una buona qualità della didattica, ed è provato che dove ci siano classi in cui la maggior parte dei ragazzi non parla l'italiano, faticano ad integrarsi, diventa difficile mantenere la qualità e una buona didattica. E allora la redistribuzione è una fatica da compiere, ma io credo che abbiamo riscontri, stiamo monitorando la situazione dal Ministero, c'è qualche criticità, ma sostanzialmente la circolare viene attuata. Ancora qualche telefonata, iniziamo con Cristiano da Pistoia. Prego Cristiano. Sì, buongiorno, io volevo chiedere questo al Ministro. Siccome penso che una delle esigenze più importanti ogni volta che si prova a fare una riforma della scuola sia quella appunto di redistribuire le risorse e di spendere al meglio, chiedevo al Ministro cosa ne pensa sul tema del finanziamento pubblico agli istituti privati. E questo perché poi volevo mettere in luce un altro punto, che essendo nell'area euro e diciamo il paese con la più alta imposizione fiscale, come cittadini abbiamo anche l'aspettativa di dare ai nostri figli una scuola di qualità, che in questo momento credo non ci sia, altrimenti siamo anche disposti a mandarli alla scuola privata, però allora deve cambiare l'imposizione fiscale come negli Stati Uniti. Ecco, non si può avere lei, siccome non è, mi permetta, non è stato molto chiaro, ma lei sarebbe favorevole a più sostegno alla componente anche privata? Non ho capito. Diciamo, ho capito. Io, a parte come la mia idea, diciamo, ecco, che io penso che un grande paese si distingua da un paesuccio da come istruisce i propri figli e d'accordo, da come sulla questione privata. Penso anche che questo governo, siccome è un governo liberista, possa anche fare una scelta diversa, però basta che faccia una scelta, cioè meno scuola, meno tasse, non si può fare continuare a spendere questi soldi. Ho capito, dice, se ci prendete tante tasse e ci date una scuola non all'altezza, lasciateci più liberi allora di scegliere più livello privato. Non avevo capito. Una scuola migliore continuando a pagare queste tasse. Pubblica, ho capito. Grazie Cristiano. Eccoci tornati in studio con il ministro Gelmini sulla riforma avviata ieri della scuola media superiore, tecnici e professionali nel nostro paese. Dopo il punto a cui il ministro risponde tra poco sulla componente privata e pubblica della scuola, altre domande. Viviana dalla provincia di Milano, prego Viviana. Pronto? Prego signora, dica. Sì, buongiorno, io sono un genitore, ho una figlia che sta facendo il primo anno del liceo linguistico e volevo chiedere intanto due perché, nel senso nella riforma non sono state coinvolte le professionalità della scuola, nel senso che non c'è stato un vero e proprio coinvolgimento, un tavolo di lavoro a cui prendessero parte anche molti docenti che sono molti anni che lavorano nella scuola e che hanno avuto un'esperienza della scuola e anche delle sue, ovviamente dei limiti che la scuola superiore ha in questo momento. E un'altra domanda riguardava il problema degli investimenti. A mio parere non esiste riforma senza investimenti e quindi quello che mi sembra di vedere è soprattutto una riduzione dell'orario, quindi una perdita diciamo anche in termini di posti di lavoro eccetera. Ma un'ultima cosa volevo dire riguarda il liceo che frequenta mia figlia, che è un liceo dell'eccellenza. Il ministro saprà benissimo che esistono sul territorio nazionale alcune, non tanti, ma alcune decine di licei che hanno fatto della loro sperimentazione un fiore all'occhiello. Il liceo Virgilio di Milano è uno di questi e verrà completamente spazzato via, nel senso che verrà ridotto a un qualunque liceo che non ha avuto nessuna delle esperienze. Solo per fare un piccolissimo esempio, il liceo Virgilio di Milano ha un piano di studi nel biennio molto simile tra classico, scientifico, linguistico e sociale, che consente il riorientamento dei ragazzi, quindi se uno si è iscritto per errore al classico può passare a un altro ordine di studi, ha le compresenze di alcune materie, per esempio storia e diritto o storia e storia dell'arte, al latino per 5 anni e linguistico che verrà tolto. Senza illustrarci tutte le possibilità dell'istituto, però le domande sono state chiare: coinvolgimento scarso, le dice nullo anzi delle professionalità della scuola, l'impatto che c'è naturalmente su esperienze come queste e gli investimenti, quindi una bella batteria di questioni a cui si aggiungevano precedentemente componente privata e pubblica. La parola al ministro. Parto da quest'ultima affermazione che francamente mi sento di smentire, soprattutto laddove segnala un'assenza di dialogo e di confronto. Premesso che sono anni che all'interno della scuola si discute di questa riforma, di come riformare la scuola superiore, sono decenni di discussioni, di dibattiti, di convegni, ma anche durante l'ultimo anno gli approfondimenti sui diversi percorsi di studio non sono mancati, sono stati condotti all'interno di convegni, di seminari che hanno coinvolto più di 10.000 tra insegnanti e dirigenti scolastici in tutte le regioni italiane, perché abbiamo fatto ormai un anno fa la prima riunione con i dirigenti scolastici regionali. Attraverso di loro sono stati organizzati per provincia, non solo in ogni regione ma in ogni provincia italiana, convegni e dibattiti. Abbiamo aperto tavoli di lavoro al Ministero che hanno visto il coinvolgimento di tutti gli operatori della scuola, delle rappresentanze sindacali, delle associazioni professionali, del mondo della cultura, della ricerca. Io francamente da questo punto di vista mi sento la coscienza a posto. È chiaro che non è reiterando all'infinito il dibattito che si approvano le riforme, perché poi chi governa ha il dovere e anche la responsabilità di decidere. Ricordo inoltre che questa è stata forse la prima volta in cui L'approvazione di una riforma è stata preceduta da un dibattito sul sito dell'INDIRE, che è l'agenzia di formazione degli insegnanti, e peraltro l'iter di approvazione è stato estremamente lungo, perché vi è stato la prima lettura in Consiglio dei Ministri, poi il parere del Consiglio di Stato, poi i pareri delle commissioni parlamentari e quindi da ultimo la seconda lettura in Consiglio dei Ministri. Quindi tutto si può dire, si può anche non essere d'accordo, è evidente, sui contenuti della riforma, ma non che questa sia una riforma calata dall'alto, perché si farebbe torto non tanto alla sottoscritta, quanto ai moltissimi operatori della scuola che da mesi gratuitamente hanno lavorato presso il Ministero e presso le singole direzioni regionali a questo immane lavoro. Detto questo, le sperimentazioni. Beh, io voglio ricordare che forse centinaia e centinaia di sperimentazioni rappresentano più confusione che qualità. Ma detto questo, riconosco che esistono alcuni modelli di sperimentazione che meritano di essere mantenuti, e così sarà, perché noi abbiamo aumentato l'autonomia delle scuole, cioè a livello nazionale noi diamo indirizzi a cui tutte le scuole si devono uniformare, ma premessa l'impostazione generale, la ratio uguale per tutti, noi salvaguardiamo e valorizziamo gli spazi di autonomia di ogni singola scuola. Quindi il liceo Virgilio, se vorrà mantenere un'offerta formativa simile a quella attuale, lo potrà tranquillamente fare. E anche il riorientamento è un elemento importante che fu introdotto dal ministro Moratti, che noi abbiamo la volontà di confermare, proprio per combattere la dispersione scolastica e non per non far perdere anni ai ragazzi. Per quanto riguarda il tema delle scuole paritarie, io preferisco parlare di scuola statale e di scuola paritaria, non di scuola pubblica e privata, perché la scuola è sempre pubblica anche quando non è gestita dallo Stato ed è paritaria, e non è una posizione velleitaria. Credo che rimandi ad un profondo rispetto che tutti noi dobbiamo avere verso l'istituzione forse più importante del paese. Detto questo, l'affermazione amara del signore che appunto mi interpella su questo tema purtroppo è vera. Io ricordo ancora una volta una cifra: lo Stato risparmia 5 miliardi e 600 milioni di euro grazie alle scuole paritarie, e credo che sia un elemento che debba fare riflettere, unitamente al fatto che mediamente il costo per ogni studente nella scuola paritaria non si capisce come mai sia inferiore rispetto al costo pro capite all'interno della scuola statale. Ma detto questo, l'impegno nostro è quello di garantire a tutti una buona scuola, quindi è chiaro che noi ci rivolgiamo prevalentemente alla scuola statale, ma credo che non vada demonizzata la scuola paritaria, perché questa conflittualità ideologica che da molti anni ha bloccato il dibattito sulla riforma della scuola sia un approccio novecentesco che dobbiamo totalmente abbandonare. Dobbiamo pensare a garantire ai ragazzi, indipendentemente dal ceto sociale, dal luogo di residenza, una buona scuola, e dobbiamo, secondo me, ragionare meno di curricula, di ore di insegnamento, e pensare ad un progetto educativo che parta dalla centralità della persona. Questo è il punto, è la sfida educativa, è il rischio educativo che sempre si corre. Non facciamo una questione ragionieristica o di quantità di ore e di insegnamenti. Noi dobbiamo dare, da un lato, una solida formazione di base ai nostri ragazzi, e poi indirizzi precisi che consentano loro di diventare autonomi il prima possibile. Il ministro, c'è un ultimo minuto. Io non ho fatto domande personali, non la faccio, quindi io vengo bombardato di richieste di chiederle se poi lei va o meno in un viaggio di nozze. No, io l'ultimo minuto le chiedo due cose. Moltissimi ci chiedono: ma cosa succede nel periodo di transizione? Cioè, chi ha i figli iscritti in cose che poi nella riforma non ci sono più, cosa succede? Si capisce il territorio? Realmente a chi bisogna chiedere? Prima questione. Allora, la seconda è: cosa farete però per tenere più vicini, coinvolti comunque i sindacati, comunque anche se vi criticano, di qualunque sia la loro matrice, per dare agli insegnanti la possibilità di non essere considerati esclusi da questa impostazione? Perché moltissime me dicono questo. Prego a lei, un minuto. Allora, per quanto riguarda diciamo, le novità della riforma, i cambiamenti, noi abbiamo, come lei ricordava all'inizio della trasmissione, posticipato la scadenza delle iscrizioni a fine marzo, proprio perché questo, il mese di febbraio e il mese di marzo saranno utilizzati per l'orientamento, cioè noi stiamo sia attraverso il sito del Ministero www.istruzione.it, dove da lunedì sarà presente un'informativa precisa su tutti i cambiamenti e su tutte le novità, sia attraverso materiale cartaceo che distribuiremo presso le direzioni scolastiche regionali e provinciali e poi presso le scuole. Vogliamo mettere le famiglie nelle condizioni di conoscere le novità. Ricordo che la riforma parte solo dal primo anno, quindi chi oggi si trova in seconda, terza, quarta superiore non è soggetto a nessuna modifica. L'abbiamo fatta partire solo dal primo anno per evitare di creare tensioni o comunque disguidi di ogni genere. Per cui io credo che se oltre a lei, che ringrazio, dottor Giannino, altri operatori dell'informazione si preoccuperanno, a parte di commentare la riforma, di farla conoscerla, di spiegarla, questo sarà un servizio al paese, perché faccia una promessa anche ai tanti che dicono che lei non ascolta chi la pensa diversamente. Ma guardi, io passo molte delle mie giornate al tavolo con le diverse associazioni, i diversi rappresentanti della scuola. Sono abituata per formazione e per indole ad ascoltare soprattutto coloro che vivono sul campo le difficoltà, i problemi e che hanno l'esperienza. Non manca nemmeno il confronto con il sindacato, che io rispetto, dopodiché questo è un governo che decide, quindi noi siamo stati eletti per cambiare le cose, per migliorare, di essere e quindi coerenti. Tentiamo di farlo. Io ringrazio il ministro Gelmini e avrete capito che il mio giudizio positivo su questa riforma, me ne piglio la responsabilità e con chi non è d'accordo riequilibrerò altrove. Secondo me sulla scuola c'è bisogno di pensare a qualità della formazione, non solo più come si è fatto per decenni a chi ci lavora. Grazie in regia a Paolo Corleone, Alessandro Marco Tulli, la linea Generale Radio, appuntamento a lunedì.